avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle. Vi siete mai posti il problema di quanto possa essere strampalata una vostra idea, una vostra soluzione riguardo a un problema che investe il vostro campo d'azione? Insomma, vi sono mai venute folli idee in testa che voi eravate fermamente convinti che avrebbero risolto il problema? E quanto vi siete fatti scrupolo di comunicarle quando gli ambienti, soprattutto gli ambienti professionali o gli ambienti in cui si sviluppa il pensiero, ma anche i nostri ambienti, gli ambienti dell'informazione, quanto è difficile far passare qualcosa che ancora non è transitato per le agenzie di stampa, questa notizia, ma no, ancora non c'è sulle agenzie, aspettiamo, vediamo. E tu magari sei convinto in quel momento, hai colto sul nascere qualcosa che poi diventerà notizia, diventerà argomento di discussione. Beh, l'umanità tende comunque a essere conservativa, a seguire le vie tradizionali, a rigettare ciò che sembra eterodosso rispetto agli schemi di pensiero consueti. Questo naturalmente è antitetico ad ogni innovazione. Non c'è cambiamento laddove, questa è una mia teoria, poi vediamo se oggi riusciamo a confermarla o smentirla, laddove non sprizzi perlomeno un attimo il germe della follia, o quello che comunemente viene inteso follia, che significa quella sorta di guizzo di eterodossia, di messa in discussione di tutte le regole, e che tutto ciò che già sembrava ormai testato, collaudato, già fluidificato dall'uso, dall'abuso, e quindi ormai non più capace da rinnovazione, venga messo in discussione. 800240024. Oggi faremo vedere come sull'innovazione, sul fatto che in realtà innovare significa anche andare contro le regole, contro ciò che già sembra dato per scontato, altrimenti noi continueremo a credere che ancora la Terra sia piatta e tante altre cose meravigliose. Quindi è probabilmente una delle maniere per rispondersi questa mattina al fatto che forse quell'idea che abbiamo nel cassetto, quella soluzione che avevamo proposto nel nostro ambiente lavoro, vale la pena di ritirarla fuori, perché probabilmente noi eravamo sulla strada dell'innovazione. Premio Ig Nobel in biologia a Li Biao Zhang e altri dell'Università di Bristol per aver documentato scientificamente la pratica della fellazio nei pipistrelli della frutta. I pipistrelli della frutta svolgono tra di loro questa pratica di accoppiamento che sembra che li renda molto più produttivi dal punto di vista della proliferazione. Quindi è stato interessante che questo staff di cinesi assieme a un loro collega americano abbiano studiato a fondo, ci sono dei documenti visivi, la pratica della fellazio nei pipistrelli della frutta. Voi direte, ma è una follia, è qualcosa ai limiti dello scurrile. Probabilmente avrà un senso anche questo, e infatti è stato premiato insieme anche a quest'altra favolosa idea. Premio Ig Nobel in chimica ad Antonio Mullet e Carmen Rosselló, Spagna, per lo studio sulla velocità ultrasonica nel formaggio cheddar a pasta dura in relazione alla temperatura. Anche questa ricerca, questo studio vi sembrerà folle, vi sembrerà pazza, probabilmente è inserito in un piano di ricerca più ampio, in cui ha avuto anche senso questo, infatti anche questo è stato premiato, ma non premiato così soltanto per burla, per gioco, per sfida, premiato anche da una giuria composta da veri, reali e concreti premi Nobel. Premio Ig Nobel in fisica per Philippe Perrin e altri per aver provato a determinare perché i lanciatori di disco hanno le vertigini, mentre i lanciatori di martello non ne soffrono per niente. 800240024, questo è stato necessario per darvi il contesto, per far capire se idee come queste sono state frutto di ricerche approfondite, di staff composti da professori universitari, finanziate da enti serissimi e seguite nell'ambito di università, evidentemente anche la vostra idea potrebbe avere un senso. Professor Daniele Archibugi, buongiorno. Buongiorno a voi. Il professor Archibugi è dirigente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, e professore di innovazione all'Università di Londra. Sveliamo l'arcano per chi non avesse avuto notizia. Di quale premio stiamo parlando nella fattispecie? Ma questo è il premio un po' tra il serio e il faceto, sono i cosiddetti Ignobel che vengono dati tutti quanti gli anni in una università non del tutto periferica come quella di Harvard, con delle giurie composte anche da scienziati molto seri e che fanno un po' la parodia ai premi Nobel. Anticipano ovviamente di qualche giorno il vero premio Nobel, infatti. Sì, infatti, anche questo qui è un fatto mediatico, ovviamente lì in quei giorni, agli inizi d'ottobre, stanno tutti quanti in attesa di sapere chi avrà vinto il premio Nobel, quello vero, e quindi il giorno prima c'è la possibilità di avere l'attenzione dei mass media, dei giornali, delle televisioni, anche su questi premi Nobel scherzosi. Quest'anno ha vinto il premio Nobel, però in attenzione mediatica, dando il premio Nobel a un morto, praticamente. Sì, quello è stato un incidente di percorso. Corso perché di fatto quando il comitato si è riunito, il comitato perché ha assegnato il premio Nobel per la medicina, i tre premiati erano ancora vivi. Tutti e tre vivi, sì. E poi è successo che quando l'hanno comunicato Urbi e Torbi, uno era morto e quindi era una cosa che non era mai successa. Si è creato un problema di regolamento. Sì. Tornando al premio Nobel, lei professore nella sua università spesso insegnando innovazione porta come esempio i premi Nobel o le invenzioni che sembrano strampalate. Ha un senso la ricerca su campi che diremmo noi improponibili, come appunto l'arte fellatoria dei pipistrelli della frutta? Ma innanzitutto bisogna dire una cosa, uno non sa mai nella ricerca scientifica quello che trova. E quindi uno deve sapere quello che cerca, giustamente, però poi se la ricerca scientifica si basa anche su di scoprire qualcosa che già non sappiamo, succede molto spesso che uno cerca una cosa e poi ne trova un'altra. Quindi non escluderei che i nostri colleghi cinesi che si sono occupati dei pipistrelli stavano cercando magari una cosa del tutto diversa e osservando un comportamento che magari era finalizzato ad evitare che i predatori possano danneggiare la frutta, hanno scoperto un qualcosa sulla fellazio. Che si fa in quel caso? Che è un aiuto per l'umanità comunque notevole. Quello... Se si trova una ragione concreta, pratica, etica a questa pratica, non si può che far del bene. Quello non lo sappiamo mai. Non lo sappiamo mai se prima o poi anche una ricerca così strana non avrà degli effetti. Ma ci sono degli esempi nella ricerca, nella storia della scienza, di grandi scoperte fatte per puro caso. Sì, certo. Pensiamo a Marie Curie. Quindi voglio dire, questo, la ricerca scientifica ovviamente ci ha dato un sacco di casi di scoperte che uno non si aspettava di trovare. E quindi è sempre molto importante che il ricercatore, se trova qualcosa di inaspettato, non si deve mai girare dall'altra parte. Dice no, questo non mi riguarda perché non c'entra nulla. Certo, deve invece segnalare il caso, anche perché poi le applicazioni possono essere in casi del tutto diversi. Loris, buongiorno. Buongiorno. Primo ascoltatore. Sì, io volevo intervenire a proposito del tema di oggi perché mi sembra innanzitutto molto interessante e vorrei rilevare il fatto che oltre al concetto di serendipità di cui parlavate adesso, appunto le scoperte che avvengono per caso prima dirigendo i propri interessi di ricerca e scoperta altrove e poi scoprendo qualche cosa che all'inizio non si credeva di poter trovare, ci sono anche proprio quello che lei Nicoletti diceva in apertura di trasmissione, vale a dire quei guizzi di follia e di eterodossia che portano a compiere da parte dell'umanità, da parte della ricerca scientifica dei passi in avanti e secondo me altro non sono che forme di creatività e capacità di fantasia. Ma forse per questo Loris l'iconografia tradizionale dello scienziato è sempre uno scienziato pazzo. Ecco, sì, ma mi sembra interessante poter far coincidere l'immagine dello scienziato pazzo con l'immagine dell'artista, laddove il mondo solitamente tende a categorizzare. Va bene, grazie. Sì. In due dicotomie, cioè da una parte l'arte, dall'altra la scienza, e credo che sostanzialmente ci sia un minimo comune denominatore molto forte, vale a dire appunto la capacità di astrarre, di concettualizzare in termini fantastici e di creare e di fingere nel senso etimologico del termine, proprio costruire. Ecco, questo mi sembra che possa unire l'artista e lo scienziato, e mi sembra che a volte non si faccia mai abbastanza caso, mai abbastanza attenzione a quanto ci sia di artistico nel mestiere della scienza, e a volte anche quanto ci sia. È molto chiaro. Professor Archibugi, integro la domanda che ci fa il nostro ascoltatore. Nel nostro paese, non per piangersi addosso, già c'è chi lo fa anche troppo bene, il fatto che l'innovazione sia l'elemento che sembra più carente, fra i più carenti perlomeno, non passato dal fatto proprio che esista questa forte censura, che la razionalità è qualcosa che deve essere disgiunto completamente dalla fantasia, dalla poesia, da quel guizzo di eterodossia. Una scienza che per forza deve essere profondamente ispirata a principi etici di rigore è una scienza che non produce nulla o poco. Ma a me non sembra che sia questo il problema italiano, anzi spesso noi ci troviamo in una situazione in cui la ricerca è sottofinanziata, pensiamo che siamo uno dei paesi che spende meno per ricerca scientifica tra i paesi industriali avanzati, spendiamo 3 volte di meno degli Stati Uniti o della Svezia, e invece poi riusciamo a sopravvivere proprio perché ci stanno questi guizzi, come dire, geniali di alcuni imprenditori che riescono a cambiare soltanto il colore di un paio di scarpe e a conquistare un mercato. E quindi, voglio dire, riusciamo con quel genio italico, quella creatività italica, spesso a sopperire alla mancanza di strutture istituzionali. Lei fa un'interessante distinzione, professore, fra quello che è appunto il valore scientifico di una scoperta e il suo valore di innovazione, che è molto diverso. E anche un'esperienza personale che, se vuole, ci raccontarci questa mattina. Lei era in una certa università, una certa mattina, in cui sembrava esplodere la follia di un ragazzino scavezzacollo. Sì, quando io stavo a Harvard, quando appunto Zuckerberg in quella famosa notte fece il concorso di bellezza tra le studentesse. E nacque Facebook. Beh sì, voglio dire, a quel punto si capì che quella persona era la persona adatta che poteva rendere quello che era il libro, il direttorio, cioè l'elenco del telefono degli studenti con la fotografia. Perché negli Stati Uniti e anche in Inghilterra questi elenchi del telefono si fanno anche con la fotografia, in qualcosa che aveva un valore molto più importante. Poi al momento sembrava una goliardata, un atto di scavezzacollo. Certo. Ecco, anche... se uno le avesse investito quella mattina in quello studente che sta nella sua stessa università, oggi sarebbe ricchissimo. Infatti, perché all'epoca stavano cercando un po', racimolavano un po' di soldi, bastavano anche $1,000 per entrare magari anche in un socio di minoranza di quell'impresa. Molti studenti ad Harvard hanno delle proprie imprese. No? È del tutto naturale che uno studente in materie scientifiche, tecniche, ingegneristiche si organizzi, faccia una piccola impresa e poi proprio appunto queste imprese, se hanno delle buone idee, riescono a crescere. Questo purtroppo in Italia non succede, e vediamo come anche le idee buone dei giovani sono spesso sacrificate perché non hanno i finanziamenti, perché burocraticamente è troppo complesso e tutto il resto. Sentiamo, visto che stiamo parlando d'Italia, stiamo parlando di innovazione, la scorsa edizione del premio Nobel, cioè l'edizione 2010, quella 2011 è stata proprio pochi giorni fa, ha visto trionfare un gruppo di ricercatori italiani per una ricerca che, giustamente, molto legata all'attualità, può farci riflettere. Premio Ig Nobel in Management ad Alessandro Pluchino, Andrea Rapisarda e Cesare Galofaro dell'Università di Catania, per aver dimostrato matematicamente che enti e aziende sarebbero più efficienti se promuovessero le persone in modo del tutto casuale. Questa è la ricerca che ha fatto trionfare gli italiani. Immaginate voi, è un po' già quello che succede, se un'azienda cominciasse a promuovere a casaccio, a dare premi di produzione, gratifiche a chi si gratta la pancia, probabilmente andrebbe meglio. Questo dicono i nostri 3 ricercatori, e ce lo spiegherà questa mattina per loro Alessandro Pluchino. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Ricercatore, professore aggregato in fisica e astronomia all'Università di Catania, vincitore del premio Nobel 2010 in economia aziendale, assieme a Andrea Rapisarda e Cesare Garofalo. Ci spiega sinteticamente la vostra ricerca che vi ha fatto meritare questo ambitissimo premio? Sì, in due parole, anche perché così giustamente a enunciare, diciamo. Ma lei è un fisico, cosa c'entra con l'organizzazione della... Io sono un fisico che assieme al professor Rapisarda ci occupiamo da alcuni anni di una nuova branca, se vuole, della fisica che applica i modelli matematici che solitamente si applicano in fisica statistica soprattutto alla società e quindi ai sistemi sociali, nonché economici, e quindi sono nuove branche nate appunto negli ultimi anni che si chiamano sociofisica, econofisica, che magari appunto al grande pubblico ancora sono parzialmente sconosciute. Diciamo un'evoluzione dell'ingegneria dell'organizzazione aziendale, ecco. E diciamo tra le varie applicazioni che abbiamo appunto trovato negli ultimi anni, questa appunto è una di queste appunto per cui siamo stati premiati l'anno scorso, e poi una ricerca ovviamente seria, nel senso pubblicata su una rivista internazionale, e tra l'altro è stata citata anche insomma da molta stampa, soprattutto devo dire estera più che italiana, e, per la sua appunto apparentemente sorprendente conclusione. In realtà si basa su uno studio di un sociologo che negli anni, fino agli anni 60, tramite le sue ricerche, capì, intuì, diciamo, che nel momento in cui in una scala gerarchica le persone che vengono promosse modificano in qualche modo il tipo di lavoro che svolgevano a livello precedente, se si promuovesse per meritocrazia, quindi se io promuovo la persona il migliore, diciamo, dal livello precedente, lo rimuove dalla sua attività, un risultato auspicabile, perché alla fine vado a fargli fare un lavoro diverso da quello che è verissimo prima. È verissimo, una volta uno viene promosso viene rimosso, come dicevano appunto, rimosso dallo stato precedente, certo. Sì, l'esempio che di solito facciamo per farci capire: un chirurgo, un bravo chirurgo che fa bene il suo lavoro come chirurgo, se viene promosso direttore sanitario perché magari si libera un posto e per questione di prestigio scelgono lui, otterremmo una doppia perdita. Da un lato non sappiamo assolutamente se lui sarà altrettanto bravo come direttore sanitario, visto che è una mansione completamente differente, e non sappiamo neanche chi metteremo al suo posto. Quindi diciamo la nostra... Guardi, è molto vero questo, professore, lo dico nel mio mestiere, un bravo giornalista, una brava penna, un bravissimo reporter, una volta viene promosso, diventa capo redattore o direttore di un giornale, smette di scrivere e deve gestire la scrittura degli altri. E il suo rovello è dire: ma perché questa cosa che potrei farla tanto bene io deve farla una testa di legno e io devo anche correggergli quello che fa? E questo è il problema. Esattamente, e la nostra proposta alla fine è ovviamente supportata. Peter nel 69 proprio scrisse un libro, quindi solamente così intuì e lo scrisse. Noi abbiamo realizzato invece un modello matematico poi comprovato da simulazioni al computer, che sono proprio la base di questi studi di sociofisica, e abbiamo dimostrato che se la persona che il bravo chirurgo, il bravo giornalista viene lasciato nella sua posizione, magari premiato in altro modo che non sia la promozione, invece dandogli soldi, secondo me è la cosa migliore. Esatto, dargli soldi, ma per continuare a fare il lavoro che già fa bene, non per modificare il lavoro che fa e mettere in una posizione in cui non sappiamo come si comporterà. Però qualcuno dobbiamo mettere in quella posizione. Allora la nostra proposta è stata quella di mettere qualcuno a caso. E questo, da un lato, la simulazione al computer dimostra che è più efficiente questa metodologia, però in questo caso, cioè nel caso proprio in cui sia di fronte a un'organizzazione in cui il tipo di lavoro cambia, quindi questo è importante precisarlo. Professor Archibuci, un primo commento su questa teoria, che adesso che è raccontata sembra meno folle di quello che sembrava semplicemente usandola come boutade giornalistica. Sì, io ne direi qualcosa di più. Accade molto spesso che le promozioni sono fatte in modo negativo e che quindi la classe dirigente viene selezionata tra le persone meno capaci, perché magari le persone meno capaci sono le persone più conformiste, sono quelle che invece di dedicarsi al proprio lavoro si dedicano... Normalmente è leccaculo che viene promosso, ecco, diciamo la verità. Non volevo usare l'espressione, ma a quello pensavo. Ogni cosa al suo nome. Ecco, a quello pensavo, e che quindi invece di, invece di pensare a fare bene il proprio lavoro, pensano a ingraziarsi il capo. E possiamo dirlo, no? In Italia il sistema accademico che poi c'entra la politica, fatto di questo. Guarda, io fui fece il mio primo contratto in Rai, ormai fa parte della storia, 30 anni fa, producendo una finta raccomandazione di uno zio arcivescovo che non avevo nulla al mondo, non avevo nessuna possibilità. mi scrissi di mio pugno questa raccomandazione, con quella ebbi il primo contratto. Quindi il sistema è questo. Complimenti. Beh, non avevo nessun merito. Anche questo meriterebbe un ignobel, direi. Ma infatti no? Ci mantengo ancora la famiglia con quell'idea. La falsa raccomandazione come strumento, perché se la falsa raccomandazione è efficace, si scardina il sistema delle raccomandazioni. Quindi a quel punto lì le commissioni concorsuali dovranno stabilire quali sono le raccomandazioni vere da quelle false. Benissimo. Professore Pruchino, però vede che alla fine ha avuto un senso la rappresentazione, se vogliamo, divertente, grottesca, folcloristica dell'ignobel. Questa ricerca, che non sarebbe stata magari presa sul serio nel nostro paese perché contro le regole non scritte, contro le convenzioni, contro il fatto che quel bravo ragazzo merita perché ha la lettera di raccomandazione dell'arcivescovo, è oggetto di discussione ad alto livello. Sì, sicuramente gli Ig Nobel sono, ma lo avete ampiamente detto, lo risottolineo, un metodo, da un lato un metodo simpatico di promuovere la scienza, accattivante, spesso la scienza viene vista come un qualcosa, una torre d'avorio per specialisti, eccetera. Invece questo è uno dei numerosi modi possibili per promuoverle in maniera accattivante e quindi estendere a un grande pubblico la conoscenza di lavori di scienziati che da un lato vengono presentati in un modo ironico, però dall'altro, come avete bene detto prima, spesso possono preludere poi a scoperte più interessanti. No, sottolineiamo che il premio Nobel per la fisica dell'anno scorso, André Geim, è stato premiato 10 anni fa per l'Ig Nobel, ha vinto 10 anni fa l'Ig Nobel, quindi l'anno scorso invece ha vinto poi il Nobel, per una ricerca, per aver fatto levitare una rana insieme a Sir Michael Berry, che tra l'altro... Sì, famosissima, la rana levitata. La rana la facciamo levitare, che sembra una stupidaggine, ma non è assolutamente, no, no. Assolutamente banale fare levitare una rana, non lievitare. No, levitare nel senso che... Sì, volava. Sollevare, esattamente, in un campo magnetico. E tra l'altro Michael Berry, quindi l'altro vincitore dell'Ig Nobel 10 anni fa insieme a Geim, è tra l'altro tra i possibili candidati per il premio Nobel per la fisica che verrà assegnato proprio oggi. Quindi diciamo, sicuramente gli Ig Nobel, ecco, al di là del loro aspetto ironico, spesso possono nascondere potenziali. Poi quello che dicevate voi prima è il succo un po' della scienza, cioè a volte da appunto intuizioni apparentemente strampalate possono nascere diciamo delle idee interessanti che poi possono condurre a scoperte, ecco. Anche la scoperta dei neutrini, per esempio, che oggi vanno per la maggiore vista, nasce con un sistema simile. Noi ci fermiamo soltanto un istante, professore, devo dare la linea velocemente alle informazioni della borsa. Nel frattempo ci sono già degli ascoltatori che hanno la loro proposta. L'ascoltatrice Giulia, che attenderà un minuto, ha una sua idea per capovolgere le leggi e l'economia, e vedremo se riusciremo a premiarla con la nostra ignobile messa in onda. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Premio Ig Nobel in matematica a Nick Svensson, Australia, per aver calcolato il numero di scatti necessari per evitare che in una fotografia di gruppo qualcuno abbia gli occhi chiusi. 800240024, vedo che molti stanno scrivendo, proponendoci delle loro idee ignobili, poi al momento di andare in onda dice no, non possiamo, abbiamo pure che ce le rubino. Se uno fa una ricerca deve avere il coraggio appunto di pubblicarla, di farla conoscere alla comunità scientifica, non tenetevi per voi le vostre idee, sennò rischiate che faranno parte del vostro lascito testamentario. Approfittate questa grande occasione ignobile di parlarne a Melog. Paolo, buongiorno. Buongiorno, da Bologna, mi chiamo Pierpaolo. Sì. Mi fa piacere poterla conoscere anche se solo telefonicamente. Allora, la mia idea, che è in un cassetto e rimarrà così anche perché non posso io cambiare la società. Spero sia ignobile come idea. Non lo so, può esserlo, può anche essere geniale, dipende sempre dai punti di vista, come abbiamo detto prima. Comunque l'idea è questa, siccome abbiamo dei grossi problemi, adesso entro fine anno non si sa ancora in quale data arriveremo a 7 miliardi e la popolazione aumenterà sempre di più. Questo crea la crisi mondiale che abbiamo, perché purtroppo non c'è né lavoro per tutti e di conseguenza economia positiva per tutti. Secondo me sarebbe il momento di creare una seconda economia nelle ore notturne. ma un'economia vera e propria, cioè una società che lavora di notte. Cioè metà dell'umanità dovrebbe decidere, come Morlock in un famoso racconto di fantascienza, che vive soltanto la notte, al buio, la comunità dei vampiri. Entrambe, giorno e notte. La notte non dovrebbe più essere un punto in cui ma quando si dorme, quando ci si riposa? No, è logico, ci saranno quelli di notte e quelli di giorno. Ah, quindi la giornata è 24 ore, fine. Detto questo, poi si decide... Non è cattiva come idea. Professore Daniele Archibugi, che è ospite con me, dirigente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, professore di innovazione all'Università di Londra. Ecco, questa idea ignobile di estendere a 24 ore il tempo utile non è priva di senso. Noi insonni sappiamo che la notte si lavora benissimo. No, mi sembra ottima, e di fatto già ci stiamo muovendo in questa direzione. Ad esempio, nelle grandi città, quelle che sono più popolate, penso a New York, a Londra, ci sono certi negozi che sono aperti 24 ore al giorno. Ci sono certe strutture di trasporto che hanno un servizio notturno eccellente. Anche a Roma cinesi e indiani tengono aperte tutto il giorno e tutta la notte. Sì, in molti casi addirittura si cerca di fare di notte quello che non si riesce a fare di giorno. Ad esempio, in alcune città fanno i lavori stradali di notte, e fanno le pulizie delle strade di notte. A New York, a Manhattan soprattutto, le merci sono consegnate in genere prima delle 6 della mattina, dalle 4 alle 5 alle 6, e uno vede che c'è un grandissimo traffico. A Roma alle 19 e un minuto le saracinesche già hanno inchiavardato e già scappano via tutti. Sì, questo ovviamente il discorso non è assoluto e generale, bisogna vedere dove ciò è necessario. Ecco, cosa manca? Ecco, questa è l'idea del nostro ascoltatore, per far capire la procedura. Perché questa idea diventi un modello e diventi una ricerca? Quali sono i passaggi da fare? Ma voglio dire, e lì si applica la creatività dello scienziato. Come è stato detto, lo scienziato assomiglia all'artista. L'ha detto prima Loris, aveva perfettamente ragione. L'idea è buona. Ovviamente l'idea in quanto tale non fa ricerca scientifica. Certo, ma bisogna trovare il... Bisognerebbe sostenerla. Uno dovrebbe cominciare a dire che in una città come Roma, ad esempio, se tutte quante le consegne dei negozi si facessero dalle 4 alle 6 della mattina... Questo qua condurrebbe ad avere una riduzione dell'inquinamento di un certo livello, condurrebbe ad avere una riduzione del traffico di un altro certo livello, e anche probabilmente vedere quali sono gli effetti negativi. Perché non scordiamoci mai che io, quando vedo le persone che lavorano nelle strade di notte, dico: beh, quello lì mi rende più facile circolare di giorno, ma la moglie di quell'uomo che fa? Dorme da sola. Non è detto. Ecco, appunto, però voglio dire, a parte l'aspetto boccaccesco che ci interessa sempre, no? I figli di quell'uomo che lavora durante la strada di notte, poi la mattina chi li porta a scuola? Sì, ma l'idea del nostro ascoltatore era di chiudere in realtà la convenzione tra giorno e notte ci sia una separazione. Se giorno e notte sono equivalenti, ci saranno delle turnazioni, la moglie la notte probabilmente farà un altro lavoro e si vedranno insieme la mattina a casa con i figli a scuola e avranno la loro vita regolare, certo. Andranno a far compere, andranno... Quello che voglio dire è che, per quanto poi mi compete, che cos'è che rende una buona idea qualcosa che sia considerato nell'ambito della ricerca? Saperla applicare. Nella ricerca scientifica, no? Ecco, le buone idee ce le abbiamo tutti, sono sicuro, eccole qua, le vedo qui sullo schermo, tutte quante le persone che sono in attesa hanno delle ottime idee. Poi la ricerca scientifica deve fare un passo in più rispetto alla buona idea e deve cominciare a studiare e a capire quali sono le condizioni che rendono queste buone idee praticabili, fare ad esempio degli esperimenti, vedere quali sono gli esperimenti che già ci stanno e quindi ad esempio vedere quali sono le conseguenze sulla vita delle famiglie, delle persone che lavorano di notte, e alla fine vedere come possiamo andare avanti, e quindi si passa dalle nuove idee alla nuova conoscenza. Questo passaggio è fondamentale, perché senza nuove idee non avremo mai nuova conoscenza, ma le nuove idee da sole non ci bastano. Se no diventa un affastellamento inutile. Giulia, buongiorno. Sì, ciao Gianluca. Qual è la sua idea? Dunque, la mia idea si chiama proprio la mia proposta e mi sono allargata a mandarla ieri proprio via mail a Radio 24. E a chi l'ha mandata? Certamente l'ho mandata al dottor Giannino. Ah beh, strano. Vedevo questa mattina, lui aveva in mano una corposa documentazione, se la stava studiando. Le darà risposta quanto prima. No, ma comunque non era presissimo dalla sua idea. Per cui immagino già quale sarebbe stata la risposta. Comunque, senti, io ieri ho pensato, nella mia profonda ignoranza finanziaria, però insomma un'idea che mi è venuta e ho voluto esporla. Me la dica. Ecco, ho detto, siccome tanto prima o poi la patrimoniale ci toccherà e ci sentiremo tutti bastonati, allora ho pensato anche al lato psicologico della situazione. Ho detto, invece di tenere i soldi, magari chi più, chi meno, chi 10.000, chi 20.000, sul conto corrente, dove non rendono assolutamente niente perché il tasso è zero, dico, vabbè, compriamo dei bot, a seconda delle proprie possibilità, rinunciando agli interessi, magari per 3 anni. Come dire, invece di tenere il materasso che non rendono niente, li presto all'Italia e tutti gli interessi che andrebbero alle persone andrebbero a risanare il debito pubblico. Se lei si fida, cominci, non so che dire. Professor Archibugi, è profondamente intrisa di ottimismo e di senso civico. Sì, mi sembra che la proposta di Giulia è molto interessante. Però interessante, la proposta di Giulia richiama una cognizione di cittadinanza dove c'è un virtuosismo nel farsi carico dei problemi dello Stato. Che cos'è che rende questa buona idea un qualcosa che possa essere considerato anche per i Nobel o per gli ignobel? No? Ad esempio, capire quali sono le condizioni in base alle quali le persone hanno un comportamento altruistico. Come venderla, come vendere l'idea. Perché... E sono disposte a fare un sacrificio personale per il bene della collettività. Probabilmente se li chiamiamo buoni ordinari del tesoro, le persone sono poco disposte a farlo. Se invece lo chiamiamo prestito di cittadinanza per un'Italia migliore, probabilmente le cose potrebbero cambiare. E quindi se... Come quando davano le fedi alla patria, riuscirono a far dare la fede alla patria, riuscirono a dare una motivazione per far questo. Quella cosa meriterebbe molto più degli ignobel, perché fu un atto vergognoso negli stessi anni in cui l'Italia entrava in guerra e approvava le leggi. Sì, però cinicamente, dal punto di vista della maniera in cui fu confezionata, non c'è dubbio. Fu confezionata benissimo. Certo, fu confezionata molto bene, e da questo punto di vista forse le democrazie dovrebbero imparare meglio anche a capire quali sono i propri problemi. Anche perché se si scatena un prestito nazionale, perché quello che dice Giulia è del tutto corretto, noi siamo in un paese in cui c'è un debito pubblico spaventoso e c'è una ricchezza privata delle famiglie che non sanno dove metterli, che vengono tenuti sui conti correnti, che è anche quella molto superiore agli altri paesi, certo. Il che vuol dire che abbiamo dei vizi pubblici e poi delle virtù private, debiti pubblici e risorse private. Però io voglio tornare su questo: che cos'è che rende una buona idea qualcosa degno della ricerca scientifica? Giulia, che se è una studentessa, una giovane ricercatrice, potrebbe sviluppare questa idea facendo dei calcoli e facendo anche degli esperimenti. E andrebbe soprattutto, secondo me, confezionata bene come proposta. Dovrebbe essere un brand forte. Io dovrei essere fiero, contento e gratificato socialmente di partecipare a questa operazione. Questa secondo me è la chiave. Sennò io farei molta più fortuna a dire faccio lo spallone, datemi i soldi, li vado io a portare in qualche paradiso fiscale, avrei una grandissima fortuna. Ma contraddirebbe l'idea che è qualcosa non è innovativo questo, certo. È una bieca operazione di malaffare. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Premio Ig Nobel in economia a Geoffrey Miller e altri per aver dimostrato che la fase del ciclo ovulatorio di una ballerina di lap dance influenza le mance che riceve. Ormai siete pronti alla follia e avete capito quanto dietro la follia esista un principio di razionalità, di saggezza. L'aspetto immaginifico, fantastico, poetico e artistico dello scienziato è quello che realmente fa progredire la scienza. Questa mattina, assieme al professor Daniele Archibugi del CNR, professore di innovazione all'Università di Londra, stiamo vagliando alcune idee apparentemente folle di ascoltatori. Quelle che finora abbiamo sentite, che più o meno gravitano sull'aspetto economico, questa è la radio che come precipua missione quella di occuparsi economia, avevano nella loro essere idee embrionali, pensate da ascoltatori, comunque un principio di realtà, andavano semplicemente sperimentate, inserite in un modello. Sentiamo Maria Cristina. Maria Cristina, buongiorno. Buongiorno, senta, sono 15 anni che cerco di fare dei manufatti, anche grossi manufatti, del tipo di cancelli, cioè li faccio, non li cerco di fare, e lampioni anche molto alti, ne ho fatti anche altri 10-12 metri. Cioè li fa lei con la fiamma ossidrica e con... No, ovviamente mi avvalgo di mio marito. Suo marito ha la maestranza specializzata. E questa dov'è l'innovazione? Anch'io sono una maestranza, ma tanto specializzata, però sì. Ci mettiamo lì, io... metto un po' le idee, lui ci mette un pochino di prima, non do, però. Sì, finora mi ha parlato di bricolage familiare. Dov'è l'idea e l'innovazione? No, è un bricolage d'impresa. Ho fatto dei dentro a dei fabbricati. Sì, ma ci dica l'innovazione in cosa consisterebbe, così il professor Archibugi può dargli un'idea. Allora, io cerco questo materiale di recupero, di risulta, presso anche i cassonetti dove lo trovo. Lei va a ravanare nella spazzatura e cosa tira fuori? E tiro fuori ferri, tiro fuori una ruota, un legno, quello che trovo. Ci sono centinaia di rom che lo fanno a Roma tutte le notti. E poi faccio questi manufatti. Allora, professor Daniele Archibugi, per chiarire bene il campo, rispetto a quello che dice questa ascoltatrice che nella sua idea produce innovazione, cosa invece si può dire? Ma bisognerebbe sapere meglio come viene fatta questa produzione. Già se c'è un riciclo di materiali, quella lì pure è un'innovazione. E probabilmente non sarà l'unica impresa che fa grandi cancelli o grandi lampioni. Bisognerebbe vedere in che misura questi lampioni sono diversi rispetto ad altri. Ma quello che volevo far capire è come si trasforma un'idea che è un'idea di quotidiana attività professionale come la signora. Come si fa a far diventare qualcosa che sia innovativo? L'abbiamo già detto prima, ma ripeterlo secondo me conviene. Ma si tratta sempre di vedere che cos'è di cui si ha bisogno, no? E quindi voglio dire, si tratta di trovare una nicchia di mercato in cui c'è qualcosa che gli altri non hanno previsto. E questa è la sfida dell'innovazione. In molti casi alcune persone ci riescono e riescono ad aprire un mercato che prima non era prevedibile e nessuno si aspettava che ci fosse. Quindi è indispensabile avere anche questa idea della vocazione di comunque avere un posto, avere un mercato. Questo vale anche per il mercato delle idee. Un'idea senza mercato, una persona, certo. Che io sono un grande scrittore, ma se nessuno ti pubblica non vali nulla. Beh sì, o comunque sia può valere per una nicchia, ma pensiamo ad esempio alla rivoluzione dei containers. L'idea di base è semplicissima: trasportare le merci dentro delle scatole. Un'idea più banale di questa non c'è, perché non c'è un grande contenuto scientifico. Ha cambiato completamente l'idea del trasporto in settori diversi, dal mare fino ai porti, fino ai treni, fino agli aerei, e che hanno pure prodotto una serie di piccole innovazioni per rendere i sistemi compatibili, perché fosse facile mettere la merce dentro i container, tirarla fuori, organizzarla, ed è stata una rivoluzione che ha abbattuto drasticamente i costi di trasporto. Quindi l'unità di misura della merce da trasportare, chi ha inventato questo ha fatto una grande invenzione. Non c'è dubbio, di cui tutti quanti traiamo un vantaggio, perché le merci adesso, il trasporto delle merci costa molto molto meno di quanto costasse una volta. Bastava pensare a fare un cubo uguale per un parallelepipedo uguale per tutti. Esattamente, c'era la standardizzazione. Ora, non è sempre così ovviamente. In altri casi invece ci stanno delle scoperte scientifiche ugualmente importanti che richiedono organizzazione, ricerca, un'attività continua, pensiamo al caso farmaceutico, sperimentazione prima sugli animali, poi su alcune persone. A volte il tempo necessario per introdurre una nuova molecola e farla diventare un farmaco che troviamo in farmacia può essere 10 anni. 10 anni di lavoro, anche di più a volte. Un ascoltatore esultava, prima anche il Viagra è nato per caso. Probabilmente, io nel caso del Viagra, cioè, devo dire, c'ho ancora poca familiarità, però voglio dire, già il fatto che esista è un qualcosa che secondo me, voglio dire, è sempre utile. Fabrizio. Oh, pronto Gianluca. Ecco, velocemente. Per dire proprio quella che sembra un'idiozia, per migliorare la sicurezza stradale bisogna abolire il riposo obbligatorio continuativo dei camionisti. Perché? Perché andare in strada oggi dalle 6 del mattino alle 8 è un suicidio, in quanto una volta, prima del 2003, c'era un traffico pesante nell'ordine di un quarto di notte e tre quarti di giorno. Adesso siamo a un quinto, un sesto di notte e 85% si svolge nelle ore di giorno. Quindi non dovrebbero dormire la notte, ma viaggiare la notte, camionisti. Sì, solo che tutti scelgono di dormire la notte perché è più facile, è più consono alla naturale. Solo che purtroppo la legge vuole 9 ore filate di riposo, senza interruzioni, se no uno ne farebbe 3 ore di notte a guidare e poi dormirebbe quando è arrivato. Io guardi, su questa cosa non metto lingua, perché si entrerebbe in un campo molto delicato in cui è in gioco la sicurezza. Sì, e incidenti pazzeschi che succedono la mattina con morti, ne sono successi. Sì, è vero, la mattina è il momento in cui le autostrade sono bloccate, che c'è sempre qualcosa che accade. E perché? Per colpa colpa della legge che ci obbliga a star fermi di notte. Lei è un camionista, quindi parla... Sì. Quindi lei parla con cognizione di causa. Esatto, esatto. Lei dice io potrei dormirmi 5 ore il giorno, poi viaggiare la notte tranquillamente, farebbe meno traffico. Professore Archibugio. E la gente che viaggia, i pendolari avrebbero le strade più libere. Questo lo dice un camionista, quindi lo dice con cognizione Perfetto. Di causa. Perfetto, in che modo la ricerca scientifica può aiutare? La ricerca scientifica può aiutare raccogliendo i dati sugli incidenti, riuscendo a capire in che misura questi incidenti dipendono da diverse fasce orarie e facendo anche delle simulazioni in cui uno riesce a capire che se si cambiasse la legge potrebbe produrre un vantaggio. Devono entrare in gioco molte discipline comunque. Ah, non c'è dubbio. C'è un medico che studia anche gli aspetti fisiologici. Uno psicologo, altre cose del genere. Uno spera sempre che quando la legge è stata introdotta la legge sia stata basata su ricerca scientifica, su una conoscenza, ad esempio, su quello che succede in altri paesi e su un'analisi delle statistiche. Ora, in molti casi, siamo ottimisti, perché purtroppo non sempre i legislatori hanno la pazienza di fondare le proprie scelte sulle conoscenze che abbiamo prodotto. Ecco, io sono indeciso, ma queste ultime due idee... Renato, velocemente, vediamo se riusciamo a dirle tutte e due. Velocissimamente. Che si è inventato? No, io pensavo a utilizzare le cabine telefoniche, come sapete ormai non vengono più utilizzate da nessuno per telefonare e sono distribuite su tutto il territorio nazionale, per fare le segnalazioni quando uno va in un bar o non gli viene fatto lo scontrino, non gli viene fatta la ricevuta, cose di questo genere, in modo che poi la finanza possa, incrociando i dati, monitorare quali sono le situazioni. Allora, un riuso della cabina telefonica come luogo di delazione per chi non fa lo scontrino. Giorgio, lei che ha inventato, poi do la chiusura al professor Archibugi. Giorgio. Buongiorno, io ho brevettato e sto lanciando un sistema mondiale innovativo per cui per le persone anziane e disabili costrette a letto io gli monto una vasca da bagno senza doverli sollevare ma con delle semplici rotazioni operando a lontananza da qualsiasi fonte. Allora, uno strumento per l'igiene degli allettati e dei disabili. Professor Archibugi, una battuta che dobbiamo chiudere. Dare il quadro. Meno male che ci sono tante idee. Ecco, alcune di queste idee saranno più utili di altre idee avranno più effetto commerciale, ma siamo nella rivoluzione dei 100 fiori. Grazie professor Archibugi, grazie a quelli che hanno dato le loro idee, continuate a mandarle se volete, vedremo se sarà il caso di riprendere l'argomento. A domani. Melog 2.0. Alors tous deux on est parti dans tourbillon la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.